Letture di Radio 24. I cittadini hanno tutti gli stessi diritti, ma non per la Presidente della Camera Laura Boldrini, che ha concesso il diritto di assistenza sanitaria integrativa alle coppie omosessuali, ma solo per i deputati. I deputati italiani hanno diritto ad estendere l'assistenza sanitaria integrativa anche ai conviventi more uxorio dello stesso sesso. I cittadini italiani, invece, no. Sembra la versione gay della Fattoria degli animali di George Orwell, dove tutti gli animali sono uguali, ma alcuni, quelli al potere, sono più uguali degli altri. Ma è solo il Parlamento italiano, dove ancora una volta rischia di approfondirsi la distanza tra il paese legale, le istituzioni, e il paese reale, le persone comuni. Su un tema già delicato e divisivo in sé, martedì scorso l'ufficio di presidenza della Camera di Laura Boldrini ha accolto la richiesta del democratico Ivan Scalfarotto, omosessuale dichiarato. Favorevoli PD, PDL e SEL. Astenuti Movimento 5 Stelle e Scelta Civica. Contrari Lega e Fratelli d'Italia. Scalfarotto, che è riuscito dove l'ex parlamentare PD Paola Concia aveva fallito, è convinto di aver fatto adottare per la Camera un principio di civiltà che vale per tutte le casse sanitarie e aziendali e si augura che l'equiparazione sessuale venga estesa anche fuori. Peccato che il Parlamento non sia un'azienda, ma un organo di rappresentanza che, in caso di mancata approvazione di una legge che sancisca questo diritto erga omnes, tradirebbe la propria missione, perché farebbe godere alla classe politica un diritto negato ai rappresentanti. Hanno infatti parlato di privilegio, di casta, anche quanti hanno applaudito, da Nicky Vendola, del SEL, a Imma Battaglia, Gay Project, oltre ovviamente a chi ha votato contro, come la Lega e FDI, o si è astenuto, come il Movimento 5 Stelle, che ha ricordato la propria proposta di legge al Senato sui matrimoni gay. In questa confusa e un po' sospetta corsa in avanti, persino Carlo Giovanardi, senatore PDL, ha ricordato una sua proposta di legge, che però esclude il more uxorio. Ora tocca al Parlamento dimostrare che non si è trattato di un'ipocrita gay pride di palazzo. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Luca Mastrantonio, Un gay pride tutto del palazzo, dove gli uguali sono più uguali, dal Corriere della Sera del 15 maggio. Fare notizia è il titolo del nuovo numero monografico della rivista Colors, dedicato ai vari modi in cui nel mondo vengono diffuse e manipolate le informazioni. Un breve commento è dedicato anche alla censura nel mondo. I giornalisti iraniani devono stare particolarmente attenti alla scelta delle parole. Come ha spiegato uno di loro in un'intervista alla BBC del 2008, non possono scrivere che alle donne è vietato guidare una moto nel paese. Ma la frase «soltanto agli uomini è consentito guidare una moto» passerà la censura. Oltre il confine, nella democratica Turchia, i reporter che danno voce al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, dichiarato fuori legge, vengono accusati di terrorismo. In Guinea Equatoriale è proibito documentare la povertà e di conseguenza girare un filmato nel paese, al 13° posto nell'indice di sviluppo umano, diventa molto difficile. Dal 2012, in Sudan, quando un giornale osa parlare del Darfur o della Corte Penale Internazionale, l'edizione del giorno viene confiscata. I post degli oltre 70 milioni di microblogger attivi in Cina vengono cancellati se contengono le parole Tibet e Great Firewall o il numero 64, che spesso si riferisce al 4 giugno 1989, giorno del massacro di Piazza Tiananmen. Nel settembre 2012, dopo aver raccontato un'epidemia di colera scoppiata nella parte orientale di Cuba, il giornalista Calixto Ramon Martinez Arias è stato arrestato con l'accusa di aver insultato il presidente dell'isola. In Vietnam, per evitare passi falsi, i direttori di tutti i giornali trascorrono ogni martedì mattina al Dipartimento Centrale della Propaganda, dove ricevono un bollettino di notizie per la settimana e vengono rimproverati per gli errori commessi in quella precedente. A dicembre 2012 erano almeno 232 i giornalisti imprigionati in tutto il mondo per aver violato le regole della censura. Secondo il Comitato statunitense per la protezione dei giornalisti, si tratta del numero più alto mai registrato. Avete ascoltato la lettura di un articolo dal numero 86 di Colors, rivista pubblicata da Fabrica, il centro di ricerca sulla comunicazione del gruppo Benetton. Nella sua requisitoria per chiedere la condanna di Silvio Berlusconi, Ilda Boccassini, parlando di Ruby, la descrive come una giovane furba di quella furbizia orientale propria della sua origine. A parte le scarse conoscenze di geografia, dato che il Marocco non è ad est ma a sud-ovest dell'Italia, la Boccassini è incappata in uno stereotipo di cattivo gusto, come commenta Paolo Di Stefano in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. Quando ha detto che Ruby è furba di quella furbizia orientale propria della sua origine, la PM ha fatto proprio uno stereotipo di cui non si sentiva il bisogno, in un processo già colmo di connotazioni ambientali. Stereotipo che peraltro viene in genere assegnato con discutibile facilità non all'Oriente, ammesso e non affatto concesso che il Marocco lo sia davvero, ma al meridione dai settentrionali. È probabile che la stessa Boccassini, napoletana, non sarebbe felice di sentirsi attribuire un'analoga banalità da un toscano o da un milanese. Dunque, non c'è da meravigliarsi che Suad Sbai, presidente dell'Associazione delle Donne Marocchine in Italia, abbia sentito il dovere di denunciare quella frase come una semplificazione grossolana e inaccettabile. Del resto, il tradizionale discrimine tra chiacchiere da bar sport e dichiarazioni ufficiali è venuta meno da anni. E di termini offensivi e razzisti sono pieni i recenti discorsi pubblici, spesso coloriti e sboccati, spettacoli indegni di chi ha perso il senso di responsabilità del proprio ruolo. Ma se ora quella furbizia orientale diventasse un motivo di scandalo, in nome del politicamente corretto, dopo aver sorvolato tante volte con un sorrisino sui bingo bongo e simili goliardie, sarebbe alquanto curioso. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Paolo Di Stefano, La scivolata sulla furbizia orientale, dal Corriere della Sera del 14 maggio.